GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ustionato gravemente da un ritorno di fiamma in casa, 42enne friulano trasferito nella notte al centro Ustionati di Cesena. Elettrocardiogramma, ecografia, analisi del sangue dal medico di base. L'ambulatorio del futuro esiste già a Casarsa. Oggi il secondo mandato di Fedriga alla Regione. Salvini a Pordenone e a Udine si cercano intese verso il ballottaggio. Morto l'autista del bus in cui morirono 7 studentesse Erasmus in Spagna, tra loro la friulana Elisa Valent. Un'avvocata in sedia a rotelle e le difficoltà di accedere al tribunale di Gorizia fra porte secondarie e segnali poco chiari. Tornano le rappresentazioni del Venerdì Santo, suggestive Via Crucis a Ciconico di Fagagna, Erto e Clout. Temperature sotto zero e gelo, ma il colpo di coda dell'inverno sembra non aver compromesso la frutticoltura. 7:19 di venerdì 7 aprile, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli, uno sguardo al meteo. Il cielo è variabile sulla regione, le temperature a Trieste 4,5 gradi, a Pordenone 2 gradi, a Udine 1,5 gradi, a Gorizia 0. A Forni di Sopra -1,5 gradi, a Tolmezzo -2, sul Piancavallo -2,5 gradi, a Tarvisio -3,5, a Sappada -4, sul monte Zoncolan -2,5 gradi, sul Lussari -3, sulla costa -6 gradi, Lignano 2. Vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Oggi in giornata cielo in genere variabile, probabilmente con nuvolosità più persistente verso il Cadore, dove dal pomeriggio sarà possibile anche qualche debole precipitazione. Sulle zone orientali potrà prevalere anche cielo poco nuvoloso. In apertura alla cronaca, è stato trasferito in volo nella notte all'ospedale di Cesena, un centro per grandi ustionati. L'uomo di 42 anni, originario di Buia, rimasto gravemente ustionato ieri sera per un ritorno di fiamma in una abitazione del centro di Gemona. La Sores ieri ha inviato un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato già in gravi condizioni all'ospedale di Udine con l'ambulanza e con l'equipe del l'elisoccorso a bordo. Lì è stato valutato appunto il trasferimento nel centro grandi ustionati. Trasportata precauzionalmente all'ospedale di Tolmezzo anche una donna di 42 anni che si trovava con lui nel momento del ritorno di fiamma. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Tolmezzo. Gli ambulatori dei medici di base sono destinati presto a diventare luoghi in cui sarà possibile fare diagnosi di primo livello per evitare il ricorso inappropriato ai pronto soccorso. A Casarsa c'è già una sorta di ambulatorio ideale dove queste strumentazioni sono presenti e i giovani medici già formati. Uno spirometro collegato con presa USB al computer. Un ecografo portatile il cui schermo è un tablet. In tempo reale il monitor può essere visto a distanza e in contemporanea anche da uno specialista ovunque si trovi. E poi un elettrocardiogramma per vedere sul posto eventuali disturbi del ritmo e nel caso intervenire. Infine un mini laboratorio per controllare per esempio l'assetto lipidico, il colesterolo, i trigliceridi, la glicemia, ma anche le urine. Si chiama strumentazione di primo livello che qualunque medico di base potrebbe avere per offrire una diagnosi precoce e una risposta veloce ai propri assistiti, evitando spesso il ricorso immotivato al pronto soccorso. A crederci, ma non sono l'unico, ci tiene a precisare, Fernando Agrusti, segretario della FIMGER regionale, che di tasca propria ha acquistato nel tempo questi strumenti, 20.000 euro circa l'investimento stimato, ma è ansioso di vedere spesi i 5 milioni di euro che la Regione ha ricevuto sotto il governo Draghi per attrezzare tutti gli ambulatori di base della regione. Sono anni che ritengo fondamentale avere un po' di diagnostica nello studio per migliorare anche le performance della medicina di famiglia e della medicina del territorio. E la mia soddisfazione è di vedere che le nuove generazioni credono anche loro in questo. Ed in effetti nel suo studio a sperimentare le tecnologie e presto ad averle nel proprio ambulatorio, Alessandro e Federica, 29 anni a testa, stanno concludendo la specializzazione in medicina di base, il cosiddetto CEFORMED, e presto anche loro, vista la carenza di medici, avranno 1.500 pazienti a testa. Hanno scelto di specializzarsi in ecografia con un corso a pagamento in più. Oggi ci sono molti corsi in ecografia e in altre tecniche diagnostiche che ormai sono svolte in regione e su tutto il territorio nazionale che ci permettono di imparare con una curva di apprendimento molto valida tutte le tecniche sufficienti a garantire questa assistenza nei nostri ambulatori. Di fronte magari a una medicina ospedaliera ipertecnologica, anche dotarci di tutte queste strumentazioni ci permette anche di avere molta più soddisfazione nel nostro lavoro. Casarsa della Delizia, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora, la politica attesa per oggi da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale la proclamazione ufficiale degli eletti dopo il voto per regionali e comunali di domenica e lunedì scorsi. Oggi anche l'investitura e il nuovo mandato di Massimiliano Fedriga come presidente della regione nella sede della giunta a Trieste. A Udine intanto sono proseguiti fino a tarda serata gli incontri in vista del ballottaggio del 16 e 17 aprile tra i candidati sindaco Fontanini per il centrodestra e De Toni per il centrosinistra. L'ultimo incontro ieri sera tra De Toni e Ivano Marchiol, che al primo turno aveva raccolto il 9,24% delle preferenze con la sua coalizione civica. L'esito dell'incontro con i termini dell'accordo raggiunto sarà comunicato questa mattina alle 11. Difficili gli accordi dell'ultimo minuto con Stefano Salmè. E a sostegno del candidato sindaco Fontanini, lunedì sarà a Udine il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini, che ieri a Pordenone ha incontrato gli eletti del partito alle regionali. Una festa post-voto iniziata con l'abbraccio a Massimiliano Fedriga, confermato presidente del Friuli Venezia Giulia. Un abbraccio e un brindisi con Massimiliano Fedriga e con tutti gli eletti della Lega in Friuli Venezia Giulia. Matteo Salvini a Pordenone ringrazia per un voto di identità, di orgoglio, di autonomia. Il leader della Lega ricorda gli impegni presi in campagna elettorale come ministro delle infrastrutture, accennando al porto di Trieste e a quello di Monfalcone, con l'obiettivo di mantenerli. Un pensiero e un abbraccio a Silvio Berlusconi, ricoverato in ospedale, e l'attenzione all'emergenza siccità. Io come ministero potrei spendere 1 miliardo di euro in più, se me lo danno, per contrastare la dispersione idrica e quindi arrivare con più acqua a casa o nei campi della nostra gente. I progetti non ci mancano, l'obiettivo è spendere fino all'ultimo euro e bene i soldi che abbiamo in tasca. Il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga fa i complimenti per il risultato di tutti i partiti della sua coalizione, al di sopra delle aspettative, sottolinea. Un riconoscimento al lavoro di un'amministrazione mirata alla concretezza, al pragmatismo, senza ideologie, aggiunge il governatore, che non è soddisfatto della partecipazione al voto, ma, dice, comunque meno bassa rispetto ad altri territori. Un successo e un lavoro di squadra che, auspica Fedriga, possa proseguire tra 5 anni nel segno della continuità. Ci sono molti voti che non sono arrivati a nessuna forza politica, ma sono arrivati 65.000 voti a me come presidente, ma è frutto di un lavoro di coalizione, non di una persona. Ho sempre detto che il lavoro di squadra è quello che ha premiato. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora la cronaca: è morto l'autista del bus Erasmus coinvolto nell'incidente in cui nel 2016 morirono 7 studentesse universitarie italiane, tra cui la friulana Elisa Valent. Sentiamo l'avvocato della famiglia Valent, Cesare Perosa. Il processo purtroppo non si terrà, il reo è deceduto, il reato è estinto e quindi la vicenda giudiziaria penale si interrompe in questo momento. Voi avevate tentato però di arrivare a un patteggiamento, a concludere cioè prima questa vicenda dal punto di vista giudiziario. Ormai era da mesi che eravamo in trattative con il legale dell'autista, ci si era ormai accordati per un patteggiamento che avrebbe consentito all'autista di ottenere uno sconto della pena e di beneficiare della sospensione condizionale e dall'altro lato che lo avrebbe portato a dichiarare in pubblica udienza la sua responsabilità penale per l'incidente stradale. Lei ha sentito la famiglia di Elisa Valent, che cosa le hanno detto, cosa le ha detto la madre? Sono abbastanza arrabbiati per quello che è successo, non tanto ovviamente per la morte dell'autista quanto per il fatto che questa vicenda si è protratta per in tempi biblici senza consentire di poter affrontare il processo da una parte e soprattutto il patteggiamento che doveva avvenire ormai in questi giorni ed è stato procrastinata l'udienza solamente perché questi 2 mesi precedenti c'è stato uno sciopero dei segretari dei tribunali spagnoli che non ha consentito di fissare questa udienza nella quale appunto l'autista avrebbe riconosciuto la propria responsabilità. La Federazione Nazionale della Stampa Italia segnala nuovi spunti per la riapertura delle indagini sull'omicidio della giornalista del TG3, Ilaria Alpi, e dell'operatore freelance triestino Miran Rovatin, avvenuto a Mogadiscio nel 1994. Il riferimento è a una serie di inchieste giornalistiche, in particolare a un servizio di Andrea Palladino, pubblicato da TPI, che riferisce di una struttura segreta nata in continuità con Gladio. L'inchiesta propone di approfondire il ruolo dei servizi deviati nell'esecuzione dei due inviati della RAI a Mogadiscio. Il presidente della FNSI, Vittorio Di Trapani, parla di elementi inediti che potrebbero scardinare anni di depistaggi, omissioni e bugie, e invita la magistratura a imprimere una nuova svolta alle indagini. Riprende oggi l'attività il punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro. Con 2 mesi d'anticipo rispetto agli ultimi 2 anni, la struttura di via Tarvisio sarà attiva da questo fine settimana, compreso il lunedì di Pasqua, e nei prossimi fine settimana, per diventare poi operativa 7 giorni su 7 dal prossimo 26 maggio e fino al 10 settembre. L'operatività della struttura, collegata al pronto soccorso di Latisana, opererà per le emergenze e urgenze, la stabilizzazione e l'eventuale trasporto in ambulanza o elicottero negli ospedali di riferimento presenti nella sede operatori della Croce Rossa e della Sogit. Da questo fine settimana il punto di primo intervento sarà aperto ogni venerdì dalle 15 fino alle 7 del lunedì. Dal 26 maggio aprirà tutti i giorni H24 fino al 10 settembre. Successivamente ancora 2 fine settimana, con apertura dalle 15 del venerdì alle 7 del lunedì. E c'è una data di inizio anche per il servizio di guardia medica turistica, che sarà presente nella struttura sanitaria di via Tarvisio a partire dal 1 giugno, ogni giorno dalle 8 alle 20. Il servizio, dedicato alle persone in temporaneo soggiorno per lavoro nel comune di Lignano Sabbiadoro e località turistiche vicine, sostituisce le funzioni proprie del medico. L'accesso dei disabili al tribunale di Gorizia è difficoltoso, mancano indicazioni, rampe e servizi. A segnalare la situazione l'avvocata Ilaria Celledoni, costretta temporaneamente ad utilizzare una sedia a rotelle per raggiungere le aule. Costretta ad usare temporaneamente una sedia a rotelle, l'avvocata Ilaria Celleoni, nonché presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, ha riscoperto le difficoltà delle persone disabili ad accedere alle aule del Tribunale. La segnaletica non è molto chiara per indirizzare la persona all'entrata di via Filzi, che può essere aperta solo da una guardia giurata. Poi il passaggio dal cortile interno per prendere l'ascensore, spesso occupato per diversi minuti. In questo edificio non c'è un accesso serio per disabili, non ci sono le indicazioni, non ci sono indicazioni delle vie di fuga, tutto è lasciato alla disponibilità dei dipendenti, che sono costretti ad aprire una porta speciale, ad attendere, non ci sono i servizi per i portatori di handicap, un edificio che non è pubblico, con accesso al pubblico che non è stato adeguato, altrimenti dovrebbe essere chiuso. Si tratta di un edificio storico che, nonostante il rispetto di tutte le norme previste, deve fare i conti con i suoi limiti, la replica del presidente del Tribunale di Gorizia, Riccardo Merluzzi, che ha precisato. Da sempre viene garantita a tutti gli utenti l'accesso a tutti gli spazi del Tribunale, aule d'udienza, cancelleria, attraverso un passaggio che mi sembra anche piuttosto agevole e lineare da percorrere. Le guardie giurate sono a disposizione per aiutare i disabili, ma resta il problema della carenza del personale, con conseguenze su tutte le attività, anche quella della manutenzione. Tra tutte le figure professionali che sono assenti in questo momento nella pianta organica, manca anche quella del dirigente amministrativo fin dal 2020. Questo pesa perché il presidente deve cumulare in sé entrambe le funzioni. Gorizia, Eva Ciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una storia di passione artigiana che arriva da Codroipo, dove si realizzano tendaggi per le grandi navi da crociera di Fincantieri. Dalla piccola bottega dei mastri tappezzieri Lucia Morandini e Fabio Pagnucco, nella zona industriale di Codroipo, ogni settimana partono le tende che arredano le grandi navi da crociera costruite da Fincantieri, il loro cliente più importante. Un prodotto di qualità realizzato con tecniche artigiane, come ci spiega Lucia. Ogni tenda ha il numero di cabina, è fatta su misura, c'è il rilievo, quindi ogni tenda è proprio artigianale. Come avete conquistato questo cliente? Pian piano ci hanno testato e circa 15 15 anni che lavoriamo per loro, siamo riusciti a soddisfarli nelle loro richieste. Per i due artigiani, che fanno coppia anche nella vita, la commessa è grande motivo d'orgoglio e soddisfazione. Un pezzo di noi c'è sopra questa nave e ci dà tanta, tanta soddisfazione. Il grosso del lavoro lo fanno le mani esperte delle 9 dipendenti, le cucitrici, tutte del territorio. Luisa è una di loro. È un lavoro che nessuno sa quanto lavoro c'è dietro fare una cosa del genere. Ci vuole impegno e anche un po' di passione. Sapere che andrà su una grande nave da crociera che gira il mondo. Un po' di orgoglio, si è fatta bene. Tra i loro clienti anche hotelleria di lusso e catene commerciali, una storia di impresa che funziona, da 1 milione di fatturato, al di là della gratificazione paradigmatica, racconta qualcosa che vale soprattutto per gli eredi del mestiere che non si trovano. Dice con amarezza Fabio. Il Made in Italy è molto ricercato, come sono ricercate moltissimo le nostre mani. Sempre di più viene richiesta una professionalità anche in questo mestiere che sembra semplice, ma in realtà devi dare una qualità finale che deve essere perfetta. Il lavoro ce n'è e ce n'è tanto. E la carenza di manodopera ci costringe quotidianamente a dire di no a nuovi lavori. Non troviamo persone che poi che vengono a lavorare, soprattutto giovani, che possono anche avere un futuro su questo mestiere, che quando l'hai imparato puoi anche tu stesso aprirti una tua azienda e partire, come siamo partiti noi, che siamo partiti da una stanza e oggi siamo quello che siamo. Codroipo, Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora un aggiornamento che riguarda la politica. Con la pubblicazione sul sito della Regione è stata ufficializzata da parte del servizio elettorale la composizione del Consiglio regionale. Non ci sono sorprese, 9 consiglieri alla Lega, 8 alla lista Fedriga e a Fratelli d'Italia, 3 a Forza Italia, 10 al PD, 4 al Patto per l'Autonomia, 1 a testa a Slovenska Skupnost, Movimento 5 Stelle, Open Sinistra FVG, Alleanza Verdi Sinistra, più il candidato Moretuzzo e il presidente della regione Fedriga. In mattinata ci saranno la proclamazione ufficiale degli eletti e, come detto, l'insediamento ufficiale per il nuovo mandato di Massimiliano come presidente della regione nella sede della giunta a Trieste. La cronaca giudiziaria: ora la Corte d'Appello di Trieste ha assolto Claudio Vagheggi, agente FIFA, procuratore calcistico ed ex calciatore dell'Udinese, dall'accusa di evasione fiscale, riformando la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Udine 2 anni fa. Accolto l'appello degli avvocati di Vagheggi, Maurizio Miculan e Maurizio Conti. L'accusa per Vagheggi era di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti nella compravendita dei giocatori a Samoa e Isla nel passaggio tra Udinese e Juventus. L'agente sportivo era stato condannato in primo grado a 1 anno e 4 mesi di reclusione e a 70.000 euro di confisca. Come ha inciso il vaccino contro il Covid-19 sui dipendenti della sanità pubblica di Trieste e dell'Isontino e su quelli dell'Università del Capoluogo Giuliano? Uno studio conferma: sono stati efficaci nel garantire più salute proprio a chi era più esposto al virus. Ma alla fine, dopo tutto quello che è successo, i vaccini anti-Covid sono riusciti a metterci al riparo dal rischio di infezione oppure no? Uno studio pubblicato 6 settimane fa sulla rivista internazionale Vaccines dimostra che sì, sono stati efficaci nel limitare i danni e garantire più salute anche a chi era più esposto al virus. Lo studio è stato condotto dall'Università di Trieste e dalla Medicina del Lavoro di Asugi su 2.323 fra amministrativi, professori universitari di varie discipline, medici e specializzanti Asugi nel periodo da marzo 2020 ad aprile 2022. Come prevedibile, chi lavorava da casa si è ammalato meno, ma dai dati emerge che anche i docenti medici e non hanno avuto un rischio molto basso di infezioni, pari a quello degli amministrativi, nonostante il contatto frequente con altre persone. Fanno eccezione i docenti non vaccinati, che sono stati invece molto più a rischio rispetto ai colleghi con la dose di richiamo. Il rischio di infezione è aumentato anche nei giovani specializzandi di medicina, sebbene limitatamente al periodo Omicron, probabilmente perché hanno una vita sociale più intensa. In ogni caso i sintomi erano lievi. Il richiamo è stato efficace contro il contagio al 90%, ha quantificato lo studio, prima di Omicron, e al 63% dopo. Oltre al vaccino hanno giocato un ruolo importante anche le tante misure prese per tenere sotto controllo la diffusione del virus, come aerazione e mascherine. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà potere la parola chiave intorno a cui ruoterà la prossima edizione di Vicino Lontano a Udine. Dal 3 al 7 maggio 200 protagonisti per 80 incontri sui temi dell'attualità. La presidente di Vicino Lontano Paola Colombo. Come ogni anno il nostro festival sceglie una parola chiave, quest'anno appunto è potere, che è una sorta di chiave che ci permette ogni anno di affrontare i temi cruciali del nostro tempo, che è un po' la cifra distintiva del nostro festival. Potere è un sostantivo, quindi è sinonimo di tutte quelle forze oscure, anche di quelle gerarchie che facciamo anche fatica a comprendere, ma ci piace sottolineare questa dimensione, è anche un verbo, quindi c'è una dimensione di azione, di possibilità di reazione alla condizione attuale. 80 appuntamenti in programma dal 3 al 7 maggio con eventi di anteprima già a partire dal 28. Nel cuore del festival ci sarà come ogni anno il premio Terzani, settimana prossima Angela Terzani, presidente della giuria, annuncerà il vincitore, serata evento quindi molto attesa dal pubblico. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa sera e poi di nuovo domenica 16 aprile alle 21, 45esima edizione della Sacra Rappresentazione Vivente della Passione di Cristo, che si terrà sulle colline di Ciconico di Fagagna. A ricordarne la storia e a presentare le novità di quest'anno è Andrea Schiffo, presidente dell'associazione Un Group di Amis. La Sacra Rappresentazione di Ciconico nasce nel 1978. Un gruppo di giovani entusiasti del paese iniziarono a rappresentare dei quadri statici innestati sulle stazioni della tradizionale Via Crucis del paese, no? la processione del Venerdì Santo. Poi la manifestazione prese piede, il numero di adesioni aumentò e la rappresentazione si spostò sulla piazza della chiesa per trovare infine, all'aumentare appunto della popolarità della rappresentazione, per trovare infine posto sulle colline del paese, dove c'è un bellissimo scenario naturale che viene valorizzato dalle luci e dai suoni la sera. Quali sono le novità di quest'anno? La novità di quest'anno è corretto, perché appunto ci terrei a sottolineare che noi ogni anno troviamo una forma nuova per la nostra sacra rappresentazione, nel senso che ovviamente il tema è quello della passione di Cristo, però viene sviluppato sempre sotto un punto di vista diverso. E quest'anno il racconto della passione di Gesù sarà fatto da dei personaggi secondari, meno conosciuti, insomma, della storia che normalmente si legge dai Vangeli. Per cui il titolo di quest'anno, Vox Populi, Vox Dei, è dovuto proprio al fatto che c'è una narrazione da parte di personaggi secondari. Dopo il biennio della pandemia, a partire dallo scorso anno, la parrocchia di San Giorgio Martire di Clauta ha ricominciato a proporre il tradizionale appuntamento con la Via Crucis dei Batatox. E la celebrazione è prevista per questa sera alle 20, che sarà guidata dal vescovo di Concordia Pordenone, Monsignor Pellegrini. La Via Crucis sarà scandita dal suono dei caratteristici Batatox clautani. Il suono prodotto da questi strumenti musicali in legno ricorda quello di numerosi tamburi che vengono percossi contemporaneamente. Un'altra suggestiva rappresentazione della Passione di Cristo è quella di Erto e Casso, la cui tradizione risale al XVII secolo. Il racconto è di Italo Filippin. Io sono un figurante dell'antica rappresentazione del Venerdì Santo di Erto, che noi chiamiamo Cagnugei. Un significato dovrebbe essere derivare da quei cani dei giudei che hanno ucciso Gesù. La nascita di questa antichissima tradizione, che pare derivi dal 1600, sostanzialmente per un voto, per aver risparmiato dalla peste all'epoca, questo paese nasce da un voto ed è sempre mantenuta con varianti. La rappresentazione non ha mai avuto né un copione né un regista. C'è una partecipazione popolare notevole, molti figuranti. E noi adesso siamo ridotti a meno di 400 abitanti residenti e abbiamo circa 150 figuranti. Sostanzialmente abbiamo anche un po' rinnovato i costumi, perché una volta se li facevano in casa con pelli di capra. È un'altra sottolineatura da fare che tutta questa rappresentazione, anche l'ascesa verso il Calvario, viene sottolineato da un rullio di tamburi molto particolare. Le temperature quasi invernali di questi giorni stanno condizionando le produzioni agricole. Sentiamo se sono stati colpiti gli alberi da frutto. Molto freddo, ma pochi danni. Il colpo di coda dell'inverno degli ultimi giorni non ha influito sulle coltivazioni del Friuli Venezia Giulia. Le gelate notturne, con temperature che hanno toccato lo zero, hanno colpito la regione proprio quando sui rami si vedono i primi fiori. Un freddo di aprile inatteso che però non preoccupa i coltivatori. Peter Larker, produttore. Tutti gli agricoltori professionisti sono tutti dotati di impianto antibrina che abbiamo azionato per 3 volte consecutivi queste ultime notti, dove le temperature si sono registrate fino a -3, però danni non ce ne sono. Sul melo, in particolare, lo stadio vegetativo è stato rallentato dalla siccità e questo, per paradosso, ha aiutato la pianta a resistere alle gelate. I fiori non sono ancora aperti e risultano meno sottoposti alle conseguenze degli sbalzi termici. Lo stesso discorso vale per il pero e il pesco. Altre varietà più sensibili, come il ciliegio, potrebbero invece aver riportato qualche danno. Tutto quello che ha quest'anno fiorito precocemente a causa del caldo anomalo che abbiamo avuto, ovviamente adesso ne ha risentito. A ridurre gli effetti del freddo sulle coltivazioni ha contribuito anche il vento. Con il suo movimento ha favorito il ricambio di aria a livello del terreno, impedendo alla brina di stratificarsi. Ma qualche problema potrebbero averlo i coltivatori non professionisti, che non dispongono di strumenti adeguati per contrastare il gelo. Chi ha gli alberi da frutto nel giardino e non sono protetti da case o da abitazioni o da stalle vicino, senz'altro qualche danno ce l'avrà. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Adesso una notizia di sport, calcio, Serie D. Il Tor Viscosa pareggia in casa contro il Portogruaro 1-1. Il Cerlin Smuzzane batte in trasferta il Dolomiti Bellunesi per 1-0. L'apertura del Piccolo di Trieste è dedicata ai provvedimenti del governo. Meno sconti in bolletta, ad aprile luce più cara. In arrivo per le famiglie aumenti medi del 20%, invariati aiuti alle imprese e contributi sul gas. Nella fotonotizia centrale si parla di arte, riappaiono i profeti del Carpaccio scomparsi da Capodistria. Per la politica spazio alle elezioni regionali. Nel centrodestra Salvini festeggia Fedriga e la Lega, voto di orgoglio e di autonomia. Ancora nel centrodestra le dichiarazioni dell'assessore uscente Fabio Scoccimarro, ma quale derby, nuove deleghe, non direi di no. Un'altra notizia richiamata in prima pagina riguarda il commercio. Le grandi catene di supermercati investono anche nei rioni. Poi la viabilità con la galleria Foraggi, nessuna data per la riapertura, mancano materiali e il tunnel a Muggia, in partenza l'iter per il raddoppio, pronto nel 2026. Di piede due notizie sul turismo, i chioschi a Sistiana fanno squadra e crociere tra i ghiacci con la nave di lusso. Bolletta della luce più cara, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine sul caro, bollette nella fotonotizia, poi la segnaletica spezzettata in città, lo prevede la norma, si rivernicia solo sull'asfalto nuovo. Di spalla alla politica, Marchiol con De Toni, sfuma l'accordo tra Fontanini e Salmessi, legge. Scuole e ballottaggi, alcuni istituti aperti, in altri niente lezioni, e a Lignano dopo oltre 40 anni chiude lo storico Cursal. In taglio basso, Uomini e Orsi, lo scrittore Mauro Corona, dopo il caso del giovane pare sbranato in Trentino, accanto, vicino, lontano, analizza il potere all'interno. Spazio anche ai numeri dell'autostrada A4, meno incidenti ma gravi, attese code nelle feste di Pasqua. Salvini, avanti con i cantieri e l'apertura del Gazzettino. Nella fotonotizia l'incendio dell'altra notte a Cercivento, intossicati in 3. Poi le imprese a caccia di 8.000 dipendenti e l'ufficio postale di Tolmezzo tra i primi in Italia ad offrire servizi digitali della pubblica amministrazione. Nell'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo il post elezioni guarda all'amministrazione locale. Fasiolo mantiene il doppio incarico. Non lascerò il municipio. La neoconsigliera regionale del PD è intenzionata a proseguire la sua esperienza anche in consiglio comunale. In cronaca cittadina il blitz dell'avvocato in sedia a rotelle. In tribunale accessi difficili. Per la cronaca giudiziaria, ingresso abusivo nel cantiere Zotti e Borges a giudizio. La vicenda riguarda il consigliere comunale Zotti e il giornalista Roberto Borges rinviati a giudizio per essere entrati senza autorizzazione nel cantiere del Parco del Castello per un servizio televisivo. Spazio poi all'Associazione dei Siciliani, definita un riferimento culturale, e ancora turismo con Pietra Rossa che entra nel tour di visite con il Roccabus nel Monfalconese. Sul Gazzettino di Pordenone l'apertura è sempre per la visita del leader della Lega, nella fotonotizia invece il funerale del giovane morto nell'auto che si è capotata alcuni giorni fa a Porcia in un laghetto. Prosciutti contraffatti più vicina all'ombra della prescrizione, sollevata la questione della competenza territoriale. Di spalla le parole del vescovo Pellegrini per Pasqua e a San Vito ristoranti a corto di personale. Chiudiamo, dice un ristoratore. Sul Messaggero Veneto, nella fotonotizia in prima pagina, l'inaugurazione del collegamento con la A27 pedemontana, timori per l'invasione di camion, e poi si parla anche del completamento della Cimpello Sequals Gemone e del raddoppio del ponte sul Meduna. Di spalla la Casa del Mutilato diventerà galleria d'arte, ancora patente revocata da 8 anni. Lui guidava lo stesso, e anche qui la chiusura della discoteca Corsa La Lignano. Tutto esaurito al Politeama Rossetti questa sera per The Music of Hans Zimmer, lo show dedicato alle colonne sonore del compositore più amato di Hollywood. E viene annunciato il raddoppio in programma domenica 28 maggio, sempre al Politeama Rossetti. Dune, Spider-Man 2, Il Cavaliere Oscuro, Interstellar, Il Codice da Vinci, Pearl Harbor, Il Gladiatore, Mission Impossible, Inception, Pirati dei Caraibi, Spirit, Wonder Woman, Madagascar, tutti i più grandi successi di Hans Zimmer verranno eseguiti dalla famosa orchestra sinfonica di Kiev, Lords of the Sounds, riconosciuta in tutta Europa per la sua professionalità e bravura. I biglietti per la nuova data saranno in vendita a partire dalle 10 di venerdì 31 marzo online su Ticket One, vivaticket.it, in tutti i punti vendita autorizzati e alle biglietterie del teatro. Altri spettacoli: il coro virile di San Mauro e il coro Sant'Ignazio di Gorizia tornano alle pendici del Sabotino per una serata che farà rivivere i fatti della Prima Guerra Mondiale. Con Marco Mantini, autore del libro La Zona Monumentale del Monte Sabotino, interverranno anche Mitya Juren, esperto del fronte dell'Isonzo, e il tenente colonnello Massimiliano Fioretti, direttore del Sacrario Militare di Re di Puglia. Alle 18. Torna a Trieste la cumbia psicotropa de Los Echecos. Ad Hangar Teatri la band presenta il nuovo album Cumbia en la Selva Nueva alle 20.30. Il duo formato dal violoncellista Tristan Onsinger e dal pianista Suichi Chino, pianoforte, ospiti del circolo jazz Thelonious alle 20.15 al CNULP di Via Madonna del Mare a Trieste. 3 date uniche per la mini rassegna Tris Trieste, proposta dalla Contrada al Teatro Orazio Bobbio tra aprile e maggio. Si parte questa sera alle 20.30 con Il Barbiere di Trieste, basato sulla celebre commedia Il Barbiere di Siviglia di Beaumarchais e sull'opera omonima di Gioacchino Rossini, riadattata e ambientata da Giacomo Seguglia nella Trieste del Settecento e interpretata da Simone De Benedetti, Enza De Rose, Daniele Molino, Davide Rossi e Giacomo Seguglia. Alle 17.30 nella sala del Circolo della Stampa di Trieste, in corso Italia 13, la presentazione del libro di Gabriella Brussic, L'arte nel quotidiano, articoli nel Messaggero Veneto 1970-1989 a cura di Nicoletta Zanni per Campanotto Editore. Gabriella Brussic, nata a Fiume nel 1945 e morta a Trieste nel 2001, è stata programmista, regista, poi giornalista, redattrice e caposervizio nella sede RAI di Trieste dagli anni 70 fino al 2000, oltre che studiosa dell'arte, insegnante nei licei classici, collaboratrice del Messaggero Veneto. Il volume è un'antologia degli articoli scritti per il quotidiano friulano e riguardanti mostre, libri, avvenimenti artistici nazionali e internazionali. Si intitola L'alba sulla città, il romanzo di Aldo Barbina, edito da Santi 40, che sarà presentato oggi a Udine nella sala eventi dell'ex caserma Osoppo, in via Brigata Re 29. L'appuntamento, organizzato dalla sezione Ampi Città di Udine in collaborazione con Bottega Errante Edizioni, inizierà alle 18. Il libro narra la liberazione del capoluogo friulano dai nazifascisti. A Tarcento, per nati per leggere, l'ora del racconto in biblioteca, letture a voce alta per bambini dai 3 ai 6 anni alle 17. Il mondo di Pasolini tra il mare e le città è il titolo della mostra che si inaugura oggi a Grado al Cinema Cristallo di via Dante Alighieri. A Trieste, al Civico Museo Sartorio, alle 11, l'inaugurazione della mostra botanica tirannica dell'artista e docente brasiliana Gisele Beigelman, curata e realizzata dalla cooperativa sociale agricola Monte San Pantaleone. A Tolmezzo, a Palazzo Frisacco, da oggi e fino al 1° maggio, la mostra Che genere di voto, parole e immagini dalla stampa friulana sul primo voto delle donne 1946-48. L'iniziativa è promossa e realizzata dal Coordinamento regionale Donne dell'AMPI e dall'Associazione Se non ora quando di Udine e ripercorre uno dei passaggi storici della ricostruzione del nostro paese alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'inaugurazione alle 18. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 circa il consueto appuntamento con Vueo Fevelindi che parlerà della guerra in Ucraina. Alle 11.20 un tranquillo weekend da paura. I programmi regionali torneranno poi alle 13.29. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio. In regia Vassia Krismancic e Eugenio Giuffrida. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Dalla Razzani e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.